Da voi no. No, non crede ai miei occhi. Ma quante saranno? Boh, non lo so. 3-4%. Ah, sei matto? Prive più importante di Milano. 500 euro a testa per entrare in nota spese. E tu mi parli di lavoro? Jason, per Dio, sono nude tutte per noi. Nudo è solo con il mio cello. La mano con un'attitudine adolescenziale mai persa lo lavora e lo tiene dritto, mentre il privé si riempie di ragazze nude e disponibili. 500 euro in nota spese. L'azienda non se ne accorgerà mai. Ma la mia mente altrove. Lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro. Mi trovo accanto a Pablo. Cerco di parlargli, ma è inutile. Una satica lo sta completamente risucchiando con un pompino. Maledetti prodotti cinesi, penso, uccideranno il nostro mercato. Su di me invece una russa la stacco un secondo dal mio pene e le chiedo: ma secondo te, meglio il 3 o il 4%? Mi sorride, mi fa cenno di sì e le prende a succhiare. Ho sempre invidiato la sicurezza delle donne. Lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, io lavoro, lavoro.